già nel valentino ciao tipo Ludo. Questo visiting che già nel 1998 con una ricerca aveva trovato che il 40% dello sgravio del peso corporeo era più effettivo per il training della deambulazione, così come nel 2002 Sullivan e Paul hanno trovato che fare un training della deambulazione a una velocità maggiore o uguale di 2 miglia per ora era più effettiva. Mo' lasciando perdere il valore, perché le miglia non ci interessano, quindi questi qui, uno di questi due aveva detto faster is better, cioè più veloce è meglio, così aveva intitolato proprio la sua ricerca. Quindi cioè, far fare il training di velocità vuol dire allenare la deambulazione ad in una maniera più vicina al normale. Cioè, ricordiamoci sempre che la deambulazione ha una velocità che ognuno se la seleziona, e quella in base a che cosa se la seleziona? Un po' ce la selezioniamo noi, diciamo, naturalmente, perché è quella che ci fa, che ci costa di meno dal punto di vista energetica, è la velocità alla quale il nostro cammino è, diciamo, illimitato, no? Perché le energie che noi riusciamo a ricavare dal metabolismo degli ATP, ADP, eccetera, eccetera, chiaramente uno può camminare sempre, chiaramente si deve alimentare, però cioè non è che c'è, cioè uno si può stancare, ma se si stanca è perché ci sono dei problemi, però si dice limitato, insomma. È una cosa teorica. È una cosa teorica, chiaramente, sì. Però cioè, se voi, anche una persona sana, pensate di camminare ad rallentatore, cioè il costo energetico, uno dice più piano costa di meno il cammino, no, costa di più. C'è più controllo. Perché ci deve essere più controllo, ci sono più co-contrazioni, perché sapete la deambulazione non è semplicemente una alternanza ritmica di attivazioni muscolari, è anche e soprattutto un gioco come il pendolo, no? Il pendolo che fa? Cammina all'infinito. Chi ce la mette l'energia? Nessuno, ce la mette lui, da un lato la accumula e poi la rilascia, la accumula e la rilascia, così è la deambulazione. Perché noi utilizziamo le braccia? Per fare un po' il meccanismo del pendolo, perché nel momento in cui il braccio, che sta in energia potenziale, cade sotto la gravità, ci dà la spinta per avanzare, quindi è un meccanismo reciprocante che ci agevola. Quindi questi meccanismi che c'entrano tutti nella deambulazione sana, affinché noi li dobbiamo anche vagamente riprodurre nel paziente, c'è bisogno che il paziente venga allenato a una certa velocità. Le parallele offrono questa velocità? No. È un concetto applicabile ai pazienti gravi? Certo che no, però nei pazienti meno gravi è un concetto da tenere presente. Poi diceva un altro, sempre questo Sullivan e Paul, che si sono prodigati molto per la causa, dicevano che addirittura nei pazienti con stroke cronici riescono a tollerare 4-5 minuti fino a 20 totali di cammino a velocità sostenuta, quindi proprio concetti allucinanti, no? Che noi magari ci sogneremmo proprio, cioè di mettere a far con un paziente con stroke. Sempre questo Sullivan identificava un minimo di 12 sessioni affinché si potesse vedere qualcosa. Se doveva levare mezzo per secondo me, eravamo lì. Poi tu dicevi che diceva in discesa. No, che sembrava l'immagine sembrava. No, in discesa no. Il treadmill in salita, però, in salita l'8% dell'inclinazione del treadmill simmetrizza il passo. Questo è un bel trucco, anche perché negli stroke voi ci avete sempre il problema della asimmetria del passo, no? Uno lo fa bene, l'altro lo fa più corto, capito? Chiaramente però inclinando il treadmill dobbiamo mettere in conto il fatto che lui fatichi di più, quindi magari lo scarichiamo un po' di più, dici da un lato ti aumento la salita, dall'altra parte però ti tolgo il peso del passeggero tuo, cioè il peso tuo, quindi puoi fare meno fatica. Poi ricordatevi una cosa, no? Il concetto del tapirulà, sicuramente il suolo è meglio, perché abbiamo detto che uno deambula nella maniera più vicina al normale, c'ha il feedback sensoriale dei piedi, così com'è. Il tapirulà comunque è un qualcosa di naturale, perché è il terreno che si muove sotto di voi. Però nei pazienti un po' più gravi, pensateci un attimo, ci sono delle faccende che ci possono portare utili. Fisiologicamente, questo si è visto, lo sanno tutti, anche c'erano, non sono state ricerche recenti, lo si sa da un bel poco di tempo, che ci sono dei fattori che innescano l'automatismo della deambulazione, no? Quelli sono i pattern generatori di locomozione, esatto, questi pattern generatori di locomozione, queste centraline che dice giustamente lei, da che cosa sono attivate? Beh, lo dico io da... Motivazionale. No, non solo motivazionale, anche, anzi sicuramente sì, ma sono sottocorticali, quindi la motivazione è più frontale, più una cosa frontale, no? Sicuramente la deambulazione è come la deglutizione, è una componente troppo mischiata, cioè sicuramente l'inizio è un atto volontario, io non sono mica un robottino, io mi voglio alzare, è la mia volontà che innesca un desiderio di motricità, quindi il comando parte dal frontale. Però poi una volta che cammino, cioè il mio padre, il sensore, mica lo penso io, ci pensa qualcuno che io mi cioè, è demandato sottocorticalmente, cioè il CPG. Da che cosa è attivato questo CPG? Lo dico io, spostamento in avanti del baricentro, uno per non cadere subito butta la gamba. Quindi, sì, per esempio, no? Cioè nel senso che quando ci sono persone che definiscono l'inizio della deambulazione come una perdita di equilibrio, cioè io per iniziare a camminare mi spingo in avanti, no? Come se mi volessi per un microsecondo perdere l'equilibrio, allora mi riesco il passo. Vi dico anche un'altra cosa che facilita il passo, è l'estensione dell'anca. Cioè l'estensione dell'anca innesca una fase di oscillazione, capito? Questo lo sanno benissimo i vostri colleghi fisioterapisti, perché quando fanno le parallele gli dicono estendi bene l'anca, cioè fanno avanzare, perché sanno che se il paziente avanza è più facile che si tira dietro l'altra gamba e quindi che fa la fase oscillante. Sapete, il passo è diviso in fase d'appoggio e fase di oscillazione, no? In che percentuale viaggiano? Uguali? No. Chi è uguale? Lunga fase di oscillazione e distanza. Oscillazione. Due terzi swing, un terzo stesso. Ragazzi, percentuali? 60-40. Si modificano? Sì. Quando si corre è chiaro che si sta poco tempo appoggiati e più cresce il periodo di volo. Ok. Siete a digiuno sul ciclo del passo? No. Nemmeno. Abbiamo la memoria in maternità. No, però abbiamo una bella discussione da poter fare. Vale. Sull'argomento. Che come si chiama il libro? No, una dispensa, un collage. Ok. Esatto. Va bene. Cercate di capire lì tutti quei, cioè tipo la definizione di step length, stride, passo, emipasso, larghezza del passo, angolo del passo. Il ciclo come è fatto, no? Cioè il ciclo secondo del passo è questo qua, cioè si parte da un contatto di un tallone, tipo adesso, e finisce di nuovo al contatto, questo è un ciclo del passo, perché questo qua è lo step e lei di passo, non c'entra niente, no? Quindi si fanno le varie fasi. Iniziato così, no? Contatto del tallone in cui uno impatta, che c'ha il ginocchio un pochettino flesso, contrazione eccentrica del ginocchio, rotolamento del calcagno, spostamento del carico, fase di volo, fase di doppio appoggio, distacco del tallone, spinta, fase di volo dell'altra gamba, riappoggio. Sono 8 fasi, se non trovate un buon libro ve lo do io, uno della Perry, evidenzia bene questo tipo di fasi anche divise per compito. Treadmill, stavamo parlando di ciò che innesca il passo, la estensione dell'anca è funzionale alla fase di oscillazione del passo, no? Quindi nel treadmill è indotta, invece sul terreno normale no? Nel treadmill è indotta perché il fatto che il terreno si sposta sotto i nostri piedi è propedeutica a questa faccenda. Vi chiaro a tutti? Quindi questo qua è un concetto, magari molti terapisti vostri, un po' più avanti dell'età, vedono quella macchina lì al secondo piano e dicono Madonna ma che è sta cosa, io meglio fare sul suolo eccetera. Ognuno ha le sue idee, però molti, ve lo dico io, è semplicemente perché nessuno gliel'ha detto queste cose importanti, perché se gliel'avessero detto uno si convince in un attimo che quella cosa in alcuni casi può dare dei vantaggi. Così come un altro concetto che piace molto ai fisioterapisti quando glielo si fa capire, che loro si prodigano tanto e lottano intere giornate di terapia, in che cosa? Quando il paziente sta alle parallele dalla sedia, no? Si verticalizza così, eccetera, eccetera, sta alle parallele. Quindi la fase preparatoria, ecco questo qui, lo spostamento del carico, brava, cioè la fase preparatoria al passo nella terapia convenzionale è lunga, è estenuante, è troppo lunga. Giustiana, direi. Esatto. Cioè, è giusto, no? Perché il passo deve essere corretto. Quindi il terapista si mette, sposta il carico sul bacino, sul lato paretico e lo sposta, ci pensa, la seconda volta fa il passo, tom, il paziente così, ma è chiaro comunque che è inattento, somatognosia, emisomatognosia, comunque c'è, cioè, il deficit motore non viene mai isolato, no? La natura che gli dice stai di là perché di là cadiamo, cioè, quindi qual è la cosa migliore per fargli capire questa cosa? Sicuramente l'aspetto cognitivo, cioè, è la terapia stile Bobas, cioè lei, la terapista o lui, il terapista che gli fa sentire proprio, dice guarda così devi stare, ti senti, cioè lo vedi, ti orienti rispetto alla gravità, lo senti, quindi la fa capire. Ma ci serve anche di fianco un'altra terapia che lo imbrachi e lo metti a camminare, cioè quello lì, vuoi o non vuoi, ci deve spostare il carico 300 volte, capito? Ce lo sposta il carico, anche perché, cioè, quando uno sta nella fase di oscillazione dell'altro atto, il carico dove ce l'ha? Ce l'ha sull'altra. Ce l'ha messo? Sì, ce l'ha dovuto mettere per forza. E quando le prime volte cadrà, ci sta la cinghia che lo sorregge. Ma poi dagli oggi che il domani, che comunque ce lo mette meglio. Capito? Scusate l'impressione della romanaccia che non mi appartiene neanche tra l'altro. Ok, altri vantaggi, altri punti di forza di questo tipo di allenamento: l'adattamento cardiaco allo sforzo. È quello che dicevamo l'altra volta, noi non stiamo facendo la riabilitazione cardiovascolare, ma quando voglio rieducare il paziente per farlo andare a fare la spesa, devo pensare anche all'aspetto cardiaco. Se quello prima faceva le maratone di New York, ha avuto un ictus e lo metto a letto per 40 giorni, lo sapete com'è? Decondizionato, cioè il cuore e i vasi si affaticano se fa 10 passi, quindi se lo metto al tapirulante si affatica un po' meno. Il concetto di decondizionare, l'adattamento cardiaco allo sforzo, ok? Senza poi farvi capire che ormai quando noi facciamo, io faccio i piani formativi aziendali per istruire i fisioterapisti e i medici, chiamo sempre il cardiologo, cioè, è una manna per lui, perché tenere un paziente con stroke immobile è proprio un problema dal punto di vista medico. Gli sale la glicemia, gli salgono i trigliceridi, il colesterolo, cioè è il movimento stesso proprio a migliorare. E quindi glicemia, colesterolo alto, pressione alta, questo è il cocktail perfetto per avere un altro ictus, capito? Già ce n'ha avuto uno e veniva da quello. Se poi a causa dell'immobilità gli faccio aumentare queste cose, ce li viene di più. Quindi fare un allenamento che sia un po' più performante sotto l'impegno cardiovascolare è, come dire, buono per l'aspetto metabolico cardiaco. Il cardiologo sarà contento. Nonostante sia un anziano che 10 anni fa ha avuto un infarto, non ce ne frega niente. Basta che l'infarto non ce l'abbia adesso. Se ce l'ha adesso, è chiaro che mette tutta più là, no. E modifica la proporzione dei differenti tipi di fibre muscolari. Quindi, se io ho un paziente grave, aspetto che non gli viene l'ipertono, gli tolgo le sinergie flessorie e lo lascio 40 giorni a letto, io non solo mi sono precluso l'aspetto della neuroplasticità, ma come ben sapete la neuroplasticità e l'aspetto effettore, ok, sono tutte legate. Cioè, perché il mio braccio destro è più grande del mio braccio sinistro? Cioè, c'è una differenza che proprio io sono il destrimane classico, ok? Cioè il quadricipite a destra che è grosso, quello a sinistra, perché sono destrimane, cioè la funzione è il corpo che si adatta alla neuroplasticità e all'esercizio. Così il paziente tenuto a letto, le fibre muscolari, quelle là, c'è, cioè, aumenta la proporzione di tessuto fibroso e tessuto adiposo e viene persa la quota importante di tessuto muscolare. Cioè vuol dire che quando fra 45 giorni lo metterete in piedi, lui dice, cavolo, 3 passi non ce la fa. Grazie, sono 40 giorni a letto, cioè neanche una persona sana dopo 40 giorni a letto riuscirebbe a fare un passo. Figuriamoci uno con un... Quindi cercate di capire questi elementi e di metterli nel pentolone della vostra formazione assieme agli altri. Quindi questi erano i vantaggi. Svantaggi: abbiamo detto, sono necessari 2 terapisti. Quindi se sono necessari 2 terapisti, nell'ideale non ci stanno, nel reale non ci stanno. Quindi vuol dire che effettivamente, se io mi prendo sta macchina per fare più pratica della terapia, se poi non ho 2 terapisti, non faccio più pratica della terapia, giusto? Perché lo faccio per meno tempo. E poi io ne aggiungerei una terza, che è quella lì, che chiaramente non è rivolta a tutti i pazienti, è rivolta a quei pazienti che stanno, diciamo, se dovessimo definire lesioni della deambulazione, menomazione della deambulazione, molto grave, non cammina, grave, cammina ma con l'aiuto di una persona proprio per il supporto, no? Diciamo in base alla PAC, 5, molto grave, 0, molto grave, 1, 2, grave, 3, 4, lieve, beh, questo tapirulante è sicuramente il target di paziente, sono il 3 o il 4, perché è lì che si può fare con il terapista, tu ce lo metti sopra e gli stai vicino. Se però il paziente ha PAC 2 o 1, cioè che lo devi sostenere con il peso, tocca che ci stiano 2 terapisti. A questo punto questa macchina potrebbe non bastarmi. Mi orienterei di più su un dispositivo che controlla meglio le traiettorie. Questa è la Cochrane nel 2005, ormai l'hanno aggiornata, praticamente raduna tutti gli studi per vedere se questo tipo di terapia, tutti gli studi che hanno fatto, tipo quello che abbiamo fatto noi, assieme agli altri che hanno fatto in tutto il mondo, li radunano e vedono alla fine, fanno una specie di riassunto. Cosa diceva? Che il treadmill non ha nessun effetto significativo sulla dipendenza, cioè non è valido come quella ricerca che abbiamo fatto noi nel far guadagnare autonomia del cammino, ma per le persone che camminavano autonomamente, cioè che già camminavano, fare il tapis roulant aumenta significativamente la velocità. Beh, è un elemento utile di cui tener conto. Cioè, vi ho sempre detto che il nostro obiettivo riabilitativo è da adattare in base al tipo di paziente. In un paziente che non cammina, qual è l'obiettivo? Farlo camminare. In un paziente che già cammina, qual è l'obiettivo? Farlo camminare meglio. Che vuol dire farlo camminare meglio? Qualità, crescere in autonomia, quindi vuol dire che se è autonomo solo sul suolo, farlo camminare autonomamente sul terreno sconnesso e sulle scale. Meglio vuol dire farlo camminare qualitativamente meglio, quindi vuol dire minore consumo di ossigeno, ma vuol dire anche maggiore velocità. Scusate, no? Il tapirulan mi può aiutare. Questo studio era molto molto interessante perché diceva: ma se io il training aggressivo me lo faccio anche con i terapisti, ma è efficace lo stesso? Cioè, se invece di quelle due persone lo scarico del peso, cioè ne metto tre, uno che mantiene il tronco, uno che sta là e uno che sta chinato per giornate e ora a muove la gamba, è efficace? Questo studio diceva: certo che è efficace, ma trovate tutti i terapisti che fanno sto lavoro, capito? Quindi, cioè, non è importante la macchina, è importante il tipo di allenamento che io voglio fare. La macchina a me mi serve perché deve togliere il lavoro sporco a voi. Voi dovete fare il lavoro pulito, cioè qualità, pensare, programmare, interagire col paziente, dare un feedback al paziente. Mi dovreste fare una statua per quanto riguarda la vostra figura. Proviamo il pezzo in mano. Sto scherzando, non so se voi sono stati coscienti, come te sono molto low profile. Questi sono altri due, un esempio di due tipi di robot. Per esempio, qui sono dei prototipi, non sono mai entrati in commercio. Uno è stato fatto in Giappone e uno in America. Uno si chiama PAM, che non è il supermercato, Pelvic Assist Manipulator. Praticamente, guardate, c'ha una cinghia che qua sto parlando di quella a sinistra, c'ha una cinghia che sorregge il peso del corpo, quindi meno male il peso del corpo sorretto è la condizio sine qua non, cioè sempre ci sta, il peso va sorretto. E poi ci sono questi bracci, che sono sei, che manipolano la pelvi, sono dei bracci idraulici che muovono la pelvi in base alla forza del passo. Mi sembra un po' troppo arzigocolato per i miei gusti, infatti non è mai entrato in produzione. Quell'altro a destra si chiama Lopez, un esoscheletro, no? Esoscheletro vuol dire che sta fuori dallo scheletro, che controlla le traiettorie dell'arto inferiore. E questo è il trainer. Oggi abbiamo finito, me devo andare, devo scappare. Da domani parleremo proprio, ci addentreremo nel trainer dopo, ma non da domani, cioè da domani. Faccio fare il corpo. Tanto c'è solo spizzo, ancora di tirare a palla. Sì, io non voglio girare. Praticamente hai registrato tutte le cavolate che ho detto oggi. Viene anche quella di fare. Paesello ricordo.